Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Beloved era radiosa. E questo a Paul D non andava. Le donne facevano come le piante di fragola prima di lasciare avanzare il loro esile fusto. La tonalità del verde cambiava, poi spuntavano i viticci e poi le gemme. Quando i petali bianchi morivano e s'affacciava la bacca color menta, la foglia appariva come dorata, radiosa e tutta ricoperta di cera. Beloved sembrava proprio così, dorata e radiosa. Paul D aveva preso l'abitudine di far l'amore con Seth al risveglio, di modo che, più tardi, quando scendeva le scale bianche e lei era già lì a impastare il pane sotto lo sguardo di Beloved, la sua mente era sgombra. Di sera, quando ritornava a casa e le tre donne si affaccendavano a preparare la tavola per la cena, la sua radiosità era talmente accentuata che Paul D si chiedeva come mai Seth e Denver non la notassero. O forse sì. Sicuramente le donne capivano, così come gli uomini, quando una di loro era eccitata. Paul D osservava attentamente Beloved per vedere se ne fosse consapevole, però lei non lo degnava della minima attenzione, spesso anzi non rispondeva neppure quando lui le faceva una domanda diretta. Lo guardava fisso e non apriva bocca. Beloved era ormai con loro da 5 settimane e su di lei non ne sapevano più di quando l'avevano trovata addormentata sul ceppo. Erano seduti a tavola, quella che Paul D aveva rotto il giorno del suo arrivo al 124. Le gambe che aveva aggiustato erano più forti di prima. Il cavolo era già tutto finito e sui loro piatti restavano ammucchiati gli ossi lucidi delle zampe di maiale affumicato. Seth stava servendo uno sformato di pane e, sussurrando, diceva che sperava fosse buono, scusandosi già in anticipo, come consuetudine per i cuochi esperti, allorché Paul D vide qualcosa sul volto di Beloved, un'aria da animale domestico in adorazione che si impadroniva di lei quando guardava Seth, e questo lo convinse che era venuto il momento di parlare. «Non hai dei fratelli o delle sorelle?» Beloved si gingillò col cucchiaio, però non gli rivolse lo sguardo. «Non ho nessuno.» «Che cosa cercavi quando sei arrivata qui?» «Questo posto. Cercavo questo posto. Dove potevo stare?» «Qualcuno ti ha parlato di questa casa?» «Lei. Me n'ha parlato lei giù al ponte.» «Deve essere qualcuno che veniva qui ai vecchi tempi», disse Seth. «I tempi in cui il 124 fungeva da stazione clandestina, dove arrivavano prima le missive e poi i mittenti, dove i brandelli di notizie venivano messi a bagno, come si fa con i fagioli secchi nell'acqua sorgiva, finché erano abbastanza morbidi da poter essere digeriti. Come ci sei arrivata qui? Chi ti ha portato?» Beloved ora lo fissava risoluta, però non rispondeva. Paul D sentiva Denver e Seth trattenere il fiato, contrarre i muscoli dello stomaco, esalare ragnatele appiccicose per sfiorarsi l'un l'altra. Decise comunque per l'azione di forza. «Ti ho chiesto chi ti ha portato qui?» «Sono arrivata a piedi», rispose. «Ho camminato tanto, tantissimo. Non mi ha portato nessuno, non mi ha aiutato nessuno.» «Avevi le scarpe nuove? Se hai camminato così tanto, perché dalle scarpe non si vede?» «Paul D, smettila di stuzzicarla!» «Voglio saperlo!» rispose lui, stringendo in pugno il manico del coltello come se fosse un bastone. «Le scarpe le ho prese! Anche il vestito l'ho preso! I lacci non andavano!» gridò lei, rifilando a Paul D uno sguardo così malevolo che Denver le mise la mano sul braccio. «Ti insegno io ad allacciarti le scarpe», disse Denver, ricevendo in cambio il sorriso di Beloved. Paul D si sentiva come se gli fosse sgusciato di mano un pescione argentato proprio nel momento in cui era riuscito a prenderlo per la coda. Ora se ne sarebbe ritornato nelle sue acque profonde, sarebbe scomparso, lasciandosi dietro solo il proprio luccichio. Ma se quella radiosità non era per lui, per chi era allora? Non aveva mai saputo di una donna che si accendesse così senza mirare a nessuno in particolare e che lo facesse solo per renderlo noto a tutti. Prima d'ora la luce era sempre apparsa quando c'era un oggetto di interesse, per esempio la donna dei 45 chilometri, opaca come il fumo finché era rimasta con lui ad aspettare nel fossato e subito raggiante non appena era arrivato Sixo. Non aveva mai sbagliato per quanto ne sapeva. L'aveva capito nell'istante stesso in cui aveva guardato le gambe bagnate di Seth, altrimenti quel giorno non sarebbe stato tanto temerario da prenderla tra le braccia e mettersi a sussurrare sulla sua schiena. Beloved, quella ragazza senza casa, senza nessuno, le batteva tutte. Anche se Paul D non sapeva dire esattamente perché, pur considerando tutta la gente di colore in cui si era imbattuto nel corso di quegli ultimi 20 anni. Prima, dopo e durante la guerra di secessione, aveva visto dei neri così storditi, affamati, stanchi, spogli, che già si poteva considerare un miracolo se ancora riuscivano a parlare o a ricordarsi di qualcosa. Chi, come lui, si era nascosto nelle caverne e aveva conteso il cibo ai gufi? Chi, come lui, aveva rubato ai maiali? Chi, come lui, di giorno dormiva sugli alberi e di notte camminava? Chi, come lui, si era immerso nella brodaglia ed era saltato nei pozzi per sfuggire ai vigilanti, ai razziatori, ai pattugliatori, ai reduci, ai montanari, ai cittadini dell'ordine e ai festaioli? Una volta aveva incontrato un ragazzo nero sui 14 anni, il quale viveva da solo nei boschi e diceva di non ricordare di aver mai vissuto altrove. Aveva visto una ragazza nera rimbecillita venire prima imprigionata e poi impiccata per aver rubato delle anatre che credeva fossero i suoi bambini. Andarsene, camminare, scappare, nascondersi, rubare e andarsene di nuovo. Solo una volta gli era stato possibile restare in un posto con una donna, con una famiglia, per più di qualche mese. Quella volta aveva passato quasi 2 anni con una tessitrice nel Delaware, il posto più schifoso per un nero che avesse mai visto, fatta eccezione per Pulaski County nel Kentucky e, naturalmente, il campo di prigionia in Georgia. Beloved era diversa da tutti quei neri. La sua radiosità, le sue scarpe nuove, qualcosa lo infastidiva. Forse era solo per il fatto che lei non infastidiva lui, o forse perché il suo arrivo era coinciso con un momento particolare. Beloved era apparsa ed era stata accolta in casa lo stesso giorno in cui lui e Seth avevano appianato la loro lite. Erano usciti in mezzo alla gente e si erano divertiti, proprio come una famiglia. Denver si era, per così dire, ricreduta. Seth rideva. Lui aveva davanti a sé la prospettiva di un lavoro stabile. Il 124 era stato ripulito dai fantasmi. Cominciava a sembrare una vita vera. E maledizione! Una donna mezzo morta di sete s'era sentita male. Era stata portata in casa, era guarita e di lì non s'era più mossa. Voleva che se ne andasse, ma era stata Seth ad accoglierla e lui non poteva cacciarla fuori da una casa non sua. Una cosa era pestare un fantasma, tutt'altra cosa era cacciar via una ragazza di colore indifesa in una zona infestata dal Ku Klux Klan, assetato com'era di sangue nero, senza il quale non poteva vivere. Il drago sguazzava a suo piacimento per tutto l'Ohio. Seduto a tavola, mentre masticava la sua solita pagliuzza di sorgo del dopocena, Paul D. decise di sistemarla da qualche parte. Si sarebbe consultato con i neri giù in città e le avrebbe trovato un posto. Quel pensiero gli si era appena affacciato alla mente quando ecco che Beloved per poco non si strozzò con uno degli acini d'uva passa dello sformato di pane. Cadde dalla sedia all'indietro e cominciò a dibattersi a terra convulsamente tenendosi la gola. Sette le diede dei colpetti sulla schiena mentre Denver le apriva le mani a forza allontanandogliele dal collo. Beloved, ora a quattro zampe, vomitò quel che aveva mangiato e si sforzò di riprendere a respirare. Quando si fu calmata e Denver ebbe ripulito tutto, Beloved disse: «Vado a dormire». «Vieni in camera mia», le disse Denver. «Così sto attenta che non ti senti male». Non poteva esserci momento migliore. Denver s'era crucciata per tutto quel tempo, fino a farne una malattia, su come dividere la propria stanza con Beloved. Era difficile dormire nella stanza sopra la sua, chiedendosi se si sarebbe sentita male di nuovo, se si sarebbe addormentata senza risvegliarsi più, oppure, oddio, no, ti prego, se si sarebbe alzata e se ne sarebbe andata via, allontanandosi dal cortile così come si era avvicinata. Lì, nella sua stanza, sarebbe stato più facile chiacchierare di notte, quando Seth e Paul D. erano addormentati, oppure di giorno, prima che uno dei due tornasse a casa. Conversazioni pazze, dolci, piene di mezze frasi, sogni a occhi aperti e malintesi più emozionanti di quanto avrebbero potuto esserlo le intese. Quando le ragazze se ne furono andate, Seth cominciò a sparecchiare la tavola. Accatastò i piatti vicino a una bacinella d'acqua. «Che cosa c'è in lei che ti irrita tanto?» Paul D. aggrottò le sopracciglia, ma non disse niente. «Abbiamo già litigato per Denver. Dobbiamo farlo di nuovo per lei?» chiese Seth. «Non riesco proprio a capire tutto questo attaccamento. È chiaro perché lei è attaccata a te, ma non riesco proprio a capire perché tu sia attaccata a lei». Seth volse lo sguardo dai piatti per osservarlo. «Che ti importa di sapere chi è attaccato, se io o lei? Il mangiare non è un problema. Ne prendo un po' di più dal ristorante, tutto qua. E poi fa compagnia a Denver. Questo lo sai, lo so che lo sai. E allora, che cos'è che ti dà tanto sui nervi?» «Non ti so dire. È una cosa che sento». «Beh, senti questo allora. Senti come ci si sente ad avere un letto per dormirci e nessuno che ti rompe l'anima a chiederti tutti i santi giorni se fai qualcosa per meritartelo. Senti come ci si sente. E se ancora non ti basta, senti come ci si sente a essere una donna di colore che gira per le strade con ogni ben di Dio, che fa venire voglia a qualcuno di saltarti addosso. Senti un po' questo!» «Lo so bene, Seth. Per filo e per segno. Non sono nato ieri e non ho mai trattato male una donna in vita mia». «Beh, allora sei il solo al mondo», replicò Seth. «Non due. No, non due. E Hall? Che cosa ti ha fatto? Ti è stato vicino. Non ti ha mai lasciato». «Ah no? E allora chi ha lasciato, se non me?» «Non lo so, ma non ti ha lasciato. Questo è poco, ma sicuro. E allora ha fatto di peggio. Ha lasciato i suoi figli. Questo non lo puoi dire. Non c'era. Non c'era dove aveva detto. Sì che c'era. E allora perché non sei fatto vedere? Perché ho dovuto mandare via i bambini da soli e restare per vedere se lo trovavo? Non ce l'ha fatta uscire dal fienile». «Dal fienile? Quale fienile?» «Quello sopra la tua testa, nel granaio». Seth si avvicinò al tavolo, lentamente, molto lentamente, prendendo quanto più tempo poteva. «Ha visto tutto. Ha visto tutto. Te l'ha detto lui. Me l'ha detto lui. Come sarebbe a dire? Il giorno che sono arrivato qui, mi hai detto che ti hanno rubato il latte. Prima non sapevo che cos'era che l'aveva sconvolto. È stato quello, credo. Sapevo solo che c'era qualche cosa che l'aveva fatto a pezzi. In tutti quegli anni, i sabati, le domeniche e gli straordinari la notte, Non l'hanno mai nemmeno sfiorato, ma quello che ha visto nel granaio quel giorno l'ha fatto a pezzi come un fuscello. Ha visto. Seth si stringeva saldamente i gomiti, quasi a impedire che volassero via. Ha visto. Deve aver visto. Ha visto quello che mi facevano quei ragazzi e li ha lasciati ancora respirare. Ha visto. Ha visto. Ha visto. Ehi, ehi, senti un po'. Ti dico una cosa, maledizione. Un uomo non è un'accetta. E taglia, e sgobba, e spacca ogni minuto della giornata. Maledizione, certe cose lo toccano. Certe cose che non può buttar giù come una pianta perché ce le ha dentro. Seth passeggiava avanti e indietro, alla luce della lampada. Su e giù, su e giù. Il contatto clandestino ci disse che era per la domenica. Mi hanno preso il latte, lui ha visto e non è sceso giù. È arrivata la domenica e lui niente. È arrivato il lunedì e ancora niente. Ho pensato che fosse morto, ecco cosa. Poi ho pensato, l'hanno preso, ecco cosa. Poi ho pensato, no, non può essere morto se non lo saprei. E poi vieni qui tu, dopo tutto questo tempo, e non mi dici che è morto perché non lo sai nemmeno tu. Così ho pensato, beh, forse si è solo trovato una vita migliore, perché se era qui vicino, se non voleva vedere me, almeno veniva a trovare Baby Sucks. Ma che aveva visto? Non l'avevo mai saputo. Che importanza ha adesso? Se è ancora vivo e se ha visto quello che è successo qua dentro, non metterà piede. Non Hall. L'ha fatto a pezzi. Seth. Paul D. alzò lo sguardo verso di lei e sospirò. Forse posso anche dirti tutto. L'ultima volta che l'ho visto, stava seduto vicino alla giangola. Aveva la faccia tutta imbrattata di burro. Non successe nulla e Seth ne fu lieta. Di solito, dopo aver sentito qualcosa, riusciva subito a raffigurarsi la scena, però ora non riusciva a raffigurarsi quello che le aveva detto Paul D. Non le veniva in mente nulla. Facendo attenzione, molta attenzione, passò una domanda più ragionevole. Che cosa ha detto? Niente. Non una parola. Non una parola. Gli hai parlato? Non gli hai detto niente? Gli avrai pur detto qualcosa? Non potevo, Seth. È che non potevo proprio. Perché? Avevo il morso in bocca. Seth aprì la porta d'ingresso e si sedette sui gradini della veranda. Il giorno era diventato azzurro senza che spuntasse il sole. Però lei riusciva ancora a distinguere i neri profili degli alberi nel prato più in là. Scuoteva il capo, rassegnata a quella mente ribelle. Perché la sua mente non rifiutava nulla? Nessun tormento, nessun dispiacere, nessuna immagine troppo odiosa, troppo ripugnante per poterla accettare. Come un ragazzo vorace, ingoiava tutto. Per almeno una volta non poteva dire «No, grazie, ho appena mangiato e un altro boccone non mi va giù!» Maledizione! Sono già sazia di due ragazzi coi denti muschiati, uno che mi succhia al seno e l'altro che mi tiene ferma, e il maestro tanto istruito che se ne sta lì a guardare e scrive tutto. Sono ancora sazia di quello, maledizione! Non posso tornare indietro e metterci altro! Metterci mio marito che se ne sta a guardare sopra di me nel fienile, nascosto lì vicino, l'unico posto dove pensava che nessuno l'avrebbe cercato, a guardare da sopra quello che io non riuscivo a guardare proprio. E senza fermarli, guardandoli e lasciandoli fare. Ma il mio cervello vorace dice, oh sì, grazie, ne voglio ancora un po', ce ne metto ancora un po', e appena comincio non c'è più fine. C'è anche mio marito accovacciato vicino alla zangola, che si imbratta tutta la faccia col burro e col latte cagliato perché non riesce a togliersi dalla testa il latte che m'hanno preso. E per quanto lo riguarda lo possono anche sapere tutti. E se era già così a pezzi allora, adesso sarà certamente morto. E se Paul D. l'ha visto e non ha potuto salvarlo, non ha potuto consolarlo perché aveva il morso di ferro in bocca, allora c'è ancora dell'altro che Paul D. mi può raccontare e che il mio cervello vuole accettare subito, senza problemi, senza mai dire no, grazie, non voglio sapere, non voglio ricordare. Ho altre cose da fare. Per esempio, preoccuparmi per domani, per Denver, per Beloved, per la vecchiaia e le malattie, per non parlare dell'amore. Ma al suo cervello il futuro non interessava. Carico del passato, desideroso d'altro ancora, non le lasciava spazio per immaginare, tantomeno per fare progetti per il domani. Esattamente come quel pomeriggio, tra le cipolle selvatiche, quando un altro passo era tutto quello che riusciva a vedere del futuro. Gli altri impazzivano. Perché lei no? Paul D. varcò la soglia e le toccò delicatamente la spalla. Non avevo intenzione di dirtelo. E io non avevo intenzione di sentirlo. Non me lo posso rimangiare, però posso lasciar perdere, disse Paul D. Vuole parlarmi, pensò Seth. Vuole che io gli chieda che cosa è stato per lui. Quanto si sente offesa la lingua com'è bloccata dal ferro. Il bisogno di sputare è così forte che a uno viene voglia di piangere. Lo sapeva già, lo aveva visto parecchie volte nel posto dove viveva prima di Sweet Home. Uomini, ragazzi, ragazze, donne. Il furore che si sprigionava dai loro occhi nel momento stesso in cui le labbra venivano tirate con violenza all'indietro. Quando il morso veniva tolto, dopo qualche giorno, si provvedeva a strofinare del grasso d'oca agli angoli della bocca, però non c'era niente da fare per placare la lingua o per levare quel furore dagli occhi. Seth alzò lo sguardo per vedere se negli occhi di Paul D. fosse rimasta traccia di tutto quello. «La gente che vedevo da bambina», disse Seth, che aveva avuto il morso, dopo sembrava sempre furiosa. Se pensavano d'usarlo su di loro per qualche motivo, non poteva funzionare perché seminava il furore dove prima non c'era niente. Quando guardo te, non lo vedo nei tuoi occhi, né da nessuna parte. C'è la maniera di farselo venire e la maniera di farselo passare. Io le ho conosciute tutte e due e ancora non so qual è peggio. Si sedette accanto a lei. Seth lo guardò. Alla luce di quel giorno così poco luminoso, quel suo volto bronzeo e ossuto le intenerì il cuore. «Me ne vuoi parlare?» gli chiese. «Non lo so. Non ne ho mai parlato ad anima viva. Qualche volta l'ho cantato, ma non l'ho mai raccontato ad anima viva. Dai, vai avanti. Posso starti ad ascoltare. Forse. Forse tu puoi stare ad ascoltarmi, ma io non sono del tutto sicuro di poterlo raccontare. Cioè, raccontarti che cos'è stato veramente, perché non è stato il morso. Non è stato quello. E allora che cosa?» chiese Seth. «I galli», rispose. «Passare davanti ai galli e guardarli mentre loro guardavano me». Seth sorrise. «Sul pino?» «Già». Paul D. sorrise insieme a lei. «Ce ne dovevano essere 5 appollaiati lassù e almeno 50 galline. C'era anche Mister. Non subito, ma non avevo fatto neanche 20 passi che me lo sono trovato davanti. È sceso dal palo dello steccato e si è piazzato sul bordo della vasca». «Gli piaceva quella vasca», disse Seth pensando. «No, adesso non c'è fine». «Vero? Ci stava come su un trono. E dire che sono io che l'ho tolto dal guscio. Se non era per me, moriva. La gallina se n'era andata con tutta la covata che pigolava dietro. Era rimasto quest'uovo. Sembrava vuoto, dentro. Ma poi ho visto che si muoveva e ho dato un colpetto per aprirlo ed eccoti, Mister, con le sue brutte zampe e tutto il resto. Ho visto quel figlio di puttana crescere e comandare a tutti nel cortile». «È sempre stato odioso», disse Seth. «Già, era proprio odioso. Crudele, anche. E cattivo. Come ti agitava contro le sue zampacce storte. Aveva la cresta rossiccia grande come la mia mano. Si è piazzato proprio lì, sulla vasca, e si è messo a fissarmi, giuro che sorrideva. Avevo ancora la testa piena di Hall e di quello che avevo visto poco prima. Al morso non ci pensavo, solo a Hall e agli altri. Ma quando ho visto Mister, ho capito che la cosa riguardava anche me. Non solo loro, anche me. Uno impazzito, uno venduto, uno sparito, uno bruciato e io lì che leccavo il ferro con le mani incrociate dietro, l'ultimo uomo di Sweet Home. Mister, lui mi sembrava così, così libero. Era meglio di me, era più forte, più duro. Quel figlio di puttana non poteva nemmeno uscire dal guscio da solo, però lui era sempre un re. E io, invece... Poldi si fermò. Si premette la mano sinistra nella destra. La tenne così finché la mano non ritrovò la calma e così il mondo che lo circondava. Poi continuò. A Mister era permesso di essere e di restare quello che era. Ma a me non era permesso di essere e di restare quello che ero. Anche se te lo cucinavi, ti cucinavi sempre un gallo che si chiamava Mister. Ma io non potevo mai più essere Poldi, né vivo né morto. Il maestro mi aveva cambiato. Ero un'altra cosa e quell'altra cosa valeva meno di un pollo al sole su una vasca. Seth gli posò una mano sul ginocchio e cominciò a strofinarglielo. Poldi aveva appena cominciato. Ciò che le aveva detto era solo l'inizio, quando il tocco dolce e rassicurante delle dita sul ginocchio lo fece fermare. Meglio così. Meglio così. Continuare a parlare forse li avrebbe spinti tutti e due in un posto da cui non c'era ritorno. Seth continuava a strofinare, premendo sul tessuto della tuta da lavoro e sulle curve spigolose del ginocchio. Sperava che servisse a calmarlo, così come calmava lei, come quando impastava il pane nella luce incerta della cucina del ristorante. Prima che arrivasse il cuoco, quando stava in uno spazio non più largo di una panca messa per il lungo, con dietro e a sinistra i recipienti del latte. Lavorare la pasta. Lavorare. Lavorare la pasta. Non c'era niente di meglio per cominciare il vero lavoro della giornata. Ricacciare indietro il passato. I'm gonna put all my love. I'm gonna dump it into the deep blue sea. I'm gonna put my love, Lord, dump it into the deep blue sea. I'm gonna let that deep blue sea wash away my misery.